Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Come abbiamo visto nella puntata di ieri, l'ultimo collegato agricoltura ha finalmente escluso sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano, pubblico e privato, dal regime giuridico dei rifiuti, consentendo quindi di destinarli a impianti di valorizzazione energetica delle biomasse e non più al solo compostaggio, processo che al contrario è piuttosto energivoro. La legge apre una strada che ora si tratta però di percorrere, cosa che non sempre risulterà facile. Per esempio, una parte consistente di queste biomasse ha un contenuto di acqua molto elevato, non è adatta alla combustione né all'alimentazione animale ed è poco utile anche nella produzione di biogas. Problemi condivisi anche da altre biomasse umide. Ebbene, una tecnologia sviluppata da un progetto europeo denominato Danube Energy cerca di risolvere il problema con un approccio che possiamo definire quello del divide et impera. Ci facciamo spiegare tutto ancora una volta da Francesco Dugoni, direttore di Agire, l'agenzia per l'energia della provincia di Mantova, che ha visto all'opera questa tecnologia. Buonasera Dugoni. Buonasera a tutti. Allora, questa tecnologia prende il nome di IFBB, Integrated Generation of Solid Fuel and Biogas from Biomass. Voi in realtà non l'avete solo vista all'opera, avete partecipato a questo progetto per svilupparla. E dicevo, divide et impera, perché? Perché in sostanza il materiale che viene raccolto, e parliamo diciamo di sfalci provenienti da prati e quant'altro, ha un iniziale trattamento di separazione tra la parte liquida e la parte solida attraverso un sistema meccanico di separazione, un estrusore in sostanza. Insomma, più o meno la stessa roba che si usa per fare succo di carota, per capirsi, no? Né più né meno. Né più né meno, ecco, benissimo. Allora, in questo spremi carote, diciamo, si mette la biomassa in questione, viene fuori una parte liquida, partiamo da qui, che cosa succede a questa parte liquida, questa specie di brodo d'erba? Perfetto, la parte liquida viene sottoposta a fermentazione anaerobica, quindi abbiamo produzione di biogas, il quale biogas può essere indirizzato sia per la produzione di calore tramite combustione dello stesso, sia per la produzione di energia elettrica. D'accordo, perfetto. E quindi poi cosa rimane a valle di questo processo? Resta ovviamente qualcosa? Sì, rimane un digestato piuttosto liquido, ma che può essere utilizzato come fertilizzante. Perfetto. Veniamo invece alla parte solida. La parte solida, che in termini tecnico viene chiamata press cake, cioè torta compressa, viene ulteriormente disidratata sfruttando il calore che grazie al biogas prodotto dalla parte liquida io produco, e questa biomassa disidratata quindi viene sottoposta a un processo di pressatura per darmi o del pellet o del brichetto. Perfetto, perfetto. E quindi queste naturalmente possono essere bruciati in una caldaia a biomassa, no? Qualunque tipo di caldaia è in grado di gestire questi materiali. Ecco, dunque, io sono un po' partito da questa legge che consente di utilizzare finalmente il verde pubblico per questo tipo di utilizzi. Però in realtà c'è moltissima biomassa che ha queste caratteristiche, cioè una biomassa molto povera, molto umida. Stiamo parlando in pratica delle erbacce, quelle che crescono dappertutto, no? Cioè c'è un potenziale molto grande. C'è un potenziale molto grande, basta di pensare a quello che proviene dalla manutenzione dei cidi stradali. Ma gli stessi sfalci prodotti anche dai cittadini, se domani dovessero essere inseriti in questa filiera, effettivamente potrebbero andare a questa destinazione. Noi un esempio pratico l'abbiamo visto proprio nell'impianto che abbiamo descritto prima, Baden-Baden, dove i cittadini conferiscono il loro verde privato, e questo verde privato domani diventa biogas e diventa un bricchetto. Ecco, però questo progetto chiama in causa il nome del Danubio, perché? Perché il Danubio è caratterizzato da queste ampie presenze di valli alluvionali, di aree vallive alluvionali, che effettivamente producono essenze, biomasse di poca significatività, di poca relativa importanza. Quindi ci si era posto il problema di cosa farne di questa biomassa. E questa tecnologia IFBB ne è una risposta. E voi lì avanti vi interessava questa cosa perché avete una situazione, esatto, simile, no? Abbiamo nel nostro piccolo, ma insomma anche noi abbiamo le valli del Mincio che attraversano Mantova, dove in alcuni punti in particolare si crea una vegetazione tipica delle valli, parlo della Cares, parlo della Phragmites australis, che un tempo avevano una loro commerciabilità ma che oggi è venuta meno, e quindi questa soluzione potrebbe essere interessante per un loro riimpiego e dare quindi anche una redditività alle aziende agricole. Insomma, è un altro pezzo di questo mosaico della sostenibilità che appunto non è affatto semplice. Va bene, grazie Francesco Dugoni. Grazie a voi, buona serata.